A bordo campo di Dario Ricci. Lo sapete bene, amici di A bordo campo, quest'anno ci stiamo divertendo ad analizzare, a raccontarvi quelle che sono anche le evoluzioni tecnologiche intorno allo sport in generale e intorno al calcio in particolare, perché ci avviamo rapidamente verso la versione 2.0 del campionato mondiale e dei prossimi campionati di calcio. In quest'ottica ci arriva dalla Toscana un'innovazione parecchio stuzzicante che oggi vogliamo raccontarvi. Parliamo di Talk, il social verticale del calcio italiano. E allora, benvenuto al nostro primo ospite, Tiziano Cetarini, responsabile finanziario di Inexma, la startup che sta mettendo a punto proprio Talk. Benvenuto Tiziano. Salve a tutti e grazie dell'opportunità. Ecco Tiziano, di cosa si tratta Talk, social verticale del calcio italiano? Che cosa vi siete inventate in quel di Arezzo? Perché Inexma sta da quelle parti, giusto? Siamo di Arezzo, anche se poi la base societaria, il network di collaborazione si estende un po' su tutto il territorio nazionale, insomma le nuove tecnologie permettono di fare questo e di lavorare anche a distanza in modo integrato. L'avventura di Inexma è nata in quanto volevamo sviluppare applicazioni, quindi app per dispositivi mobile nella forma di social network privati. Ci siamo resi conto che questo tipo di strumenti poteva trovare una loro utile applicazione nell'ambiente sportivo, con particolare riferimento a quello calcistico, e da lì sono nati i primi due progetti già sviluppati, uno con l'Arezzo Calcio, che l'abbiamo utilizzato un po' come beta test anche per ovvie vicinanze geografiche, l'altro quello con l'Empoli Calcio che è stato presentato la settimana passata. Dopodiché ci siamo detti perché non creare invece un'unica piattaforma, un unico social network specializzato, quindi verticale nel settore calcio, aperto a tutti i club e a tutti i tifosi. E da lì è nata l'idea di Talk, che oggi è diventato un progetto concreto. Ecco, in poche parole, l'obiettivo è quello di creare una sorta di imbuto, perdonami il termine e l'immagine, in cui vengano canalizzate tutte quelle informazioni, quelle frasi, quelle citazioni che attraverso i social fanno riferimento alla squadra del cuore, ai tifosi. Insomma, se uno potesse digitare la parola Empoli o Arezzo, si troverebbe, diciamo, tutto quello che rispetto a questi team viene detto in rete, in modo da canalizzare tutta l'informazione relativa a quei club, no? Esattamente. L'obiettivo è quello di creare un vero e proprio social network del settore calcio, dove le funzioni che tu hai anticipato noi le abbiamo chiamate come aggregatore multimediale, ovvero quello di permettere attraverso un unico strumento di fruire di tutte le informazioni del club del cuore. Ma questa è soltanto una delle funzioni di Talk, perché poi uniamo tutta un'altra serie di funzioni social e quelli degli eventi geolocalizzati. In questo modo Talk diventa uno strumento a 360 gradi per interagire sia con gli altri tifosi sia con le proprie squadre del cuore attraverso tutti gli strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione, quindi il mobile, la tecnologia cloud in quanto è già tutto virtuale nella rete, le funzioni social e gli eventi geolocalizzati. Quindi di fatto si crea anche la super community dei tifosi della tal squadra, che oggi sono l'Arezzo e l'Empoli, chissà, magari in futuro quello che vi auguriamo, società ancora più blasonate, così come auguriamo Arezzo e Empoli di arrivare presto al vertice del nostro calcio, per cui si crea una super community per cui anche i tifosi possono interagire tra di loro, dialogare, no? Esattamente, come se fosse un vero e proprio social network unito alle funzioni che dicevo poc'anzi. A livello di club che hanno aderito o stanno aderendo, ora non possiamo fare nomi, ma comunque ci sono già primari club di Serie A e di Serie B, quindi noi contiamo di terminare il processo di sviluppo commerciale entro l'estate per essere operativi a partire dal prossimo campionato. L'interesse che riscontriamo è forte non soltanto dal punto di vista dello strumento tecnico del prodotto, ma anche sotto il profilo del modello di business che proponiamo ai club, in quanto lo sviluppo della piattaforma è gratuito sia per i club sia per i tifosi. Il nostro modello di business si baserà poi sulla valorizzazione della pubblicità una volta raggiunta un'adeguata massa critica di utenti, e a quel punto riconosceremo ai club stessi parte di questi introiti. Quindi, a differenza di un normale social network che non riconosce niente a fronte degli utenti che apporta, noi ci differenziamo come modello di business proprio perché saremo in questo caso gli unici che andranno a valorizzare gli utenti delle squadre di calcio. E allora andiamo a sentirle, Tiziano, questi club, no? Perché nostro ospite è Gianmarco Lupi, responsabile comunicazione dell'Empoli Calcio. Benvenuto Gianmarco. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera a voi. Insomma Gianmarco, bella sfida quella del calcio 2.0 per una realtà certo dinamica, ma al tempo stesso di provincia come quella di Empoli, no? Insomma, chi l'avrebbe mai pensato ai tempi di Ekström, il biondo svedese degli anni 80, che vi sarebbe venuta l'idea di scendere in campo anche sui social con uno strumento così innovativo? Noi abbiamo sposato il progetto Talk perché riteniamo, al di là che è un servizio innovativo e che e comunque settoriale, quindi questa è una cosa che senz'altro fa piacere ai nostri tifosi, ma quello che a noi veramente fa gola è che il tutto diventa un contenitore di dati molto molto interessante per noi da poter utilizzare su tutte le nostre attività di marketing, facendo appunto leva sul feedback di tutti questi dati, perché purtroppo fino ad oggi si presentava il settantenne a fare l'abbonamento, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e forse numero di cellulare, nel caso del settantenne forse nemmeno. I dati nel 2014 sono importanti, è importante capire, sapere come vivono i tifosi, che cosa fanno quando si alza al mattino e soprattutto qual è il momento in cui hanno voglia, hanno bisogno di sapere quali sono le informazioni sulla nostra squadra. Questo è un contenitore, per noi diventerà importantissimo, e inoltre insomma il fatto che questo contenitore vada a pescare le informazioni anche su tutti gli altri social e su tutti gli altri media di comunicazione, questo ne diventa, diciamo, una situazione che per noi questo matrimonio per noi diventa veramente fondamentale per i prossimi anni. Quindi insomma è un modo anche per conoscere meglio la vostra tifoseria, sì, ecco, esatto. Per profilare il vostro tifoso, per dialogare con lui, insomma. Sì, pensa a quanto è importante nel contesto di una campagna abbonamenti di un qualsiasi evento speciale, sapere, o anche quando si vanno a realizzare i prezzi della domenica, i prezzi dei biglietti. È importantissimo sapere come la pensa il tifoso, e questo è con l'avvento dei social, e soprattutto questo, soprattutto Talk, che parlerà esclusivamente di questo, penso quanto è importante per noi. Veramente è come se noi con una telefonata chiamassimo tutti i nostri abbonati, tifosi, insomma ha delle potenzialità enormi. Occhio Gianmarco, perché vi faranno sapere anche il loro parere sulla campagna acquisti, eh. Ma noi fortunatamente non abbiamo dei tifosi esigenti. Quando siamo retrocessi, siamo sempre retrocessi tra gli applausi, e quindi insomma è cosa che difficilmente si vede in questo paese, purtroppo. Beh, insomma, vediamo, mi sembra che l'aria che tiri quest'anno a Empoli sia decisamente diversa, ma non diciamo niente, lasciamo Gianmarco Lupi innanzitutto ringraziandolo, e lo lasciamo ai suoi scongiuri di rito, perché il campionato è ancora tutto da finire. All'inizio è anche l'avventura di Talk, questo social verticale del calcio italiano promosso da Inex, ma Tiziano Cetarini, per salutarci, so che comunque, come già ci dicevi, ci sono appuntamenti importanti in agenda. Con l'inglese come te la cavi, Tiziano? Penso che sia abbastanza un obbligo, insomma, anche con lo slang americano. Qualcuno di questi appuntamenti richiede l'uso dell'inglese. Con lo slang americano va bene, sì. Noi... ci adeguiamo, poi insomma. Se vi ricordate Benigni a notte degli Oscar se le cavata, insomma, quindi, Insomma, voi toscani non è che vi manchi la capacità di improvvisare, no, di fronte. Improvvisiamo e vediamo di raggiungere il risultato. Allora, in bocca al lupo a Talk, un bel gol è quello che gli auguriamo, e grazie anche a Tiziano Cetarini per essere stato il nostro ospite oggi. Crepi, e grazie a voi per l'opportunità. A bordo campo. Fango, nebbia e pedate. Ebbene, oggi parliamo di calcio, lo facciamo spesso qui a bordo campo, ma lo facciamo in un modo tangente, diverso, laterale, perché lo sapete, a noi i limiti del campo piacciono parecchio, e lo facciamo con un amico, un ospite, che tra fango, nebbia e pedate ha camminato così tanto alla scoperta non tanto del calcio ma del pallone, quello proprio con gli scacchi bianchi e neri che fa parte della storia e dell'immaginario di tutti di noi, andando per tanti campetti di provincia per scoprire quello che è la passione che ci lega al football della porta accanto, del nostro quartiere, del nostro paesello, e per raccontarci come questo calcio sia per molti aspetti molto molto diverso da quello che guardiamo sulle PTV, che la Champions League, le musichette eccetera eccetera, per altri invece straordinariamente uguali, perché la passione in fondo, le radici sono le stesse. Allora, Fango, nebbia e pedate, la provincia dei campi di calcio, è l'ebook edito da Digitale Blanc, firmato da Luca Rinaldi, che oggi è nostro ospite qui a bordo campo. Ciao Dario, buongiorno a tutti. Allora Luca, ben arrivato a bordo campo. Direi che questo è proprio il tuo spazio naturale per questa pubblicazione, perché ti sei trasformato proprio in bordocampista di provincia per raccontarci le storie del pallone a noi più vicino. Come ti è venuta l'idea? Ma l'idea mi è venuta perché ho avuto anche una carriera, diciamo così, di sportivo sopra quei campi, e ce l'ho ancora nelle partitelle del mercoledì sera. Bene, quindi dove giochi, che magari ti veniamo a vedere? Ma io gioco a Vigevano, gli ascoltatori ci troveranno magari. Quindi se ci arriva il pallone addosso nel parcheggio è colpa tua che hai tirato fuori dal terzo anello, insomma, dello stadio di Vigevano. È molto probabile, ogni tanto infatti mi mettono dietro a fare il terzinaccio come si faceva una volta. E quindi stando su questi campi, avendo molto camminato molto in mezzo al fango, appunto, mi è venuta questa idea, perché era una fetta di sport così, diciamo, ai margini, ma sempre bellissima da raccontare, secondo me, per cui ne valeva la pena. Quindi ti sei fatto tutte queste domeniche nei campi di prima, seconda, terza categoria. In quali regioni ti sei mosso principalmente? Ma io ho fatto principalmente sui campi della Lombardia, quindi diciamo così che ho girato più che altro province anziché regioni, diciamo, e i campi della Lombardia appunto poi mi hanno lasciato questo ricordo della nebbia, in cui ci sono state un paio di occasioni dove effettivamente diventava anche difficile scrivere un resoconto di quello che succedeva, perché non si vedeva assolutamente e i giocatori e i pali della porta, per cui... Beh, insomma, nebbia e zanzare, perché mi hai detto pure che nel pavese di avventure di questo tipo non sono mancate. Assolutamente no, infatti è proprio nel pavese che secondo me si concentra una bella fetta di queste storie. Non è un caso poi che anche un personaggio come Gianni Brera arrivi da quelle zone e racconti il calcio, insomma, in un certo modo, diciamo, dire... ovviamente... lungi da me fare degli accostamenti. Però insomma vuol dire che il terreno è fertile, che di personaggi di questa commedia umana del calcio di provincia ce ne sono, e come, ecco, non mancano i ritratti, anzi ne è pieno il tuo libro, vero? Ne è pieno proprio partendo dal calciatore, quindi partendo dal portiere della terza categoria che vive nel mito di Buffon, arrivando al presidente che è proprio disperato tutti i giorni nell'ufficetto, che cerca di far quadrare i conti di queste piccole società, passando poi ovviamente per tutte quelle tipologie, diciamo così, di calciatori che si incontrano. Quindi noi parliamo spesso dello scarpone, del medianaccio, oppure dell'attaccante mitico, quello che ha giocato in Serie B, anche Serie C, e quando arriva ovviamente in seconda, in terza categoria a fine carriera, diventa sostanzialmente un totem per gli avversari e per i compagni. Diciamo che poi a fine carriera, verso i 50 anni, quelle due presenze in Serie B davanti a una bottiglia di vino e con gli amici diventano 20, poi 200, poi 2000, no? Ma per qualcuno diventa anche un preliminare di Champions League magari. Quindi insomma, da verificare sempre la fonte di questi racconti, come ha fatto Luca Rinaldi, classe 1986, giornalista freelance. Ecco, ma incuriosito, già ne parlavamo un po' prima fuori onda, Luca, del fatto che tu, da appassionato di calcio e di sport, con questo libro, con Fango, Nebbia e Pedate, con questo ebook, scrivi, ma anche di temi, diciamo così, più seri, no? Sei molto impegnato anche sui temi della cronaca, della mafia, eccetera, eccetera. Ora, l'accostamento, ahimè, abbiamo imparato a capire che poi non è così paradossale o assurdo, no? Anche nel calcio che tu analizzi, in questo ebook si vede, diciamo, quanto una squadra di calcio, il detenere una squadra di calcio, il poter essere parte di una squadra di calcio pure a questi livelli influenzi la tua reputazione in queste comunità. Certo, ovviamente non parliamo di calcio scommesse, assolutamente, anche se abbiamo visto che il calcio scommesse comunque trova terreno fertile anche in campionati minori come la Lega Pro, quindi la vecchia Serie C. Qui invece parliamo di storie appunto più locali, e proprio specialmente in special modo al sud, nel sud Italia, avere la presidenza, diciamo così, di una di queste squadre porta un certo tipo di reputazione, di contatti all'interno della società civile del posto, e quindi è visto come, diciamo così, un trampolino di lancio anche per il piccolo imprenditore che vuole arrivare sul territorio e non saprebbe come farlo altrimenti, con a volte contatti discutibili. Ecco, come sei stato accolto dalle varie formazioni a cui ti sei avvicinato? Perché insomma, tutto sommato, hai messo un po' il naso anche negli spogliatoi, anche in questi piccoli club, no? Io il naso negli spogliatoi avevo esperienza già quando ce lo mettevo io, quindi gran parte di queste storie sono uscite anche da esperienze, diciamo così, personali. E poi invece mi sono avvicinato appunto ad altri spogliatoi, altre formazioni, altri allenatori, perché poi anche la figura dell'allenatore è interessante da analizzare in questo contesto, facendo cronache locali, diciamo così, quindi in veste, diciamo, un po' più istituzionale, ma a un certo punto poi queste sono realtà dove la veste istituzionale non ci mette moltissimo a farsi benedire, insomma, e quindi si entra più in empatia, in simpatia con chi fa parte di questo mondo. Ecco, la partita più assurda a cui ti è capitato d'assistere? Ma me ne è capitata qualcuna mi è capitata, adesso io non ti saprei dire una cosa in particolare. Però ce ne sono alcune veramente toste, con il numero di espulsi incredibili, magari partite da 3, 4 espulsi, anche 5, quindi situazioni di 11 contro 7, cose di questo genere, che sembrava più una partita di calcetto poi. E poi tutto il corollario, tutto quello che c'è attorno a chi sta giocando in campo, quello forse fa più effetto vedere il guardaline. Ecco, bravo, hai detto la parola magica, il guardaline di parte. In questi campionati spesso c'è il guardaline di parte, le due società devono ognuna fornire un guardaline. Ecco, toglimi sta curiosità, quei fuorigioco ci sono oppure ognuno se ne infischia e alza sempre, sbandiera sempre a favore della propria squadra? Tu che l'hai visto da cronista. No, ecco, sul campo di provincia la cosa interessante è che questi vengono chiamati segnaline, perché non ci sono i guardaline della federazione, e quindi loro segnano appunto solo se il pallone entra ed esce. Ah, già, quindi il loro lavoro tocca all'arbitro far pure il fuorigioco. Esatto, il loro lavoro si esaurisce lì. E anche in questo ovviamente ci sono discussioni e tutto, per cui tutto il lavoro anche di segnalare il fuorigioco e tutto tocca all'arbitro, per cui questo povero arbitro, che poi ovviamente viene tartassato di insulti e parolacce, fa un lavoro che nessuno vorrebbe stare lì a fare la domenica pomeriggio. Anche perché spesso non c'è poi quella sicurezza, no? Che invece quantomeno sui campi di Serie A viene garantita. Per chiudere, Luca, ti chiedo qual è la morale che si trae da questo viaggio tra fango, nebbia e pedate, la provincia dei campi di calcio. Che calcio hai conosciuto e quanto è simile o diverso al calcio dei grandi che ammiriamo tutte le domeniche? Allora, la morale di questo libro sostanzialmente ce la danno già i numeri. Quindi noi in questo libro abbiamo raccontato il 95% del calcio che si gioca in Italia, perché solo il 5% dei tesserati risulta essere un professionista. Quindi la morale è proprio quella di raccontare il calcio, quello che si gioca nella maggior parte del nostro territorio. La morale ce la danno principalmente i numeri. Infatti in questo libro abbiamo raccontato il 95% del calcio che si gioca in Italia, perché solo il 5% risulta essere tesserato come professionista, e quindi avere la possibilità di raccontare questo 95% per me è stato subito un motivo di voglia di fare, di voglia di scrivere, e poi il libro è uscito ovviamente da solo, insomma. Eh sì, insomma, siamo tutti noi calciatori dilettanti ma appassionati che in qualche modo entriamo metaforicamente nelle pagine di Fango, Nebbia e Pedate, la provincia dei campi di calcio. Vi ricordo l'ebook dell'editore digitale Blanc. Vuoi dare il sito di riferimento, Luca, così ce l'andiamo subito a comprare? Allora, il sito lo trovate tutto su blanc.it e lì trovate tutti gli store, i negozi digitali su cui è disponibile l'ebook. Perfetto, vado subito a cliccare. Grazie a Luca Rinaldi per essere stato nostro ospite. Allora, in bocca al lupo per questa pubblicazione, per le due partite del mercoledì sera, e forza Vigevano a questo punto. E speriamo, forza Vigevano, che magari risalga qualche posizione in classifica. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia, vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dal nostro sito radio24.it, dialogare con noi col blog di A Bordo Campo e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend, A Bordo Campo torna domenica prossima sempre alle 16.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.